sapessi quante volte tu terrai stretti i denti per essere libero. È vero, sai tenere un cane, un animale in casa, e lo riesci ad amare per quanto è lungo il collare. Niente è definito, tu stacca i piedi da terra per essere libero. Chiedi niente e non fai confusione, tu sei nato a favore di un mondo moderno. Ora difendi il tuo uomo in una guerra civile per restare lì. È sotto la porta di casa, la giornata è calda, la stavi aspettando. Niente è definito.